Club Dogo, bastardi. Dicono Dio, Gio, Dio mio, vai zio, Dio, Gio, Dio mio, vai zio, Dio, Gio, Dio mio, vai zio, Dio, Gio, Dio mio, vai zio. Tutti i soldi che ho incassato li ho già spesi, sì. Perché la vita è corta come il cazzo dei cinesi. Zio, riempio versi e show, Leo Messi del flow. Questa roba sono io, la situazione come al Jersey Shore. Coca più pampero, sì. Parola del Vangelo. A te fa troppo anche la coca light, prova con la coca zero. Il peggio, con il New Era al rovescio. La versione hip hop dell'Umbrella Corporation, oh. Vetri neri, neri, occhiali neri, neri. Buchi neri, fatto serata ieri, huh? 7-0 in testa, inversamente proporzionali a quelli che ho in tasca. Scaccio, mi sfaccio sul Lamborghini giallo del tuo babbo. Chi se ne frega di che DJ del pasto, io non ballo. Te, te, te, il tetto va a fuoco. Le tue te, te, te nel video dei Dogo. Tutti vogliono vedere, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti vogliono toccare, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti vogliono sentire, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Vogliono la foto con i Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti vogliono vedere, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti vogliono toccare, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti vogliono sentire, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Vogliono la foto con i Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. In discoteca chi se ne frega. In discoteca chi se ne frega. In discoteca chi se ne frega. In discoteca chi se ne frega. Non siamo dei rapper, siamo dei selvaggi. Il flow ti fa cadere il drink e tutti i tatuaggi. Spacco quest'anno, spacco il 2013. Arriverà il tuo momento, sì, nel 2013. Resto attaccato sul lato B di queste TTT. È come una marca di jeans in tasco di dinamite. Flash, flash, troppo in fondo nel locale che mi tocca mettere la protezione solare. Sono arrogante zarro, sono uno zarrogante. Vestito total nero come i Black Panther. Zio, si rapper dietro la mia scia come Schumacher, sì. Se ti lasciano la scia come Lumacher. Suona il Dogo in tutta Milano dentro gli impianti a palla. Io sembra paura e delirio lungo la circonvalla. Non vado mai a dormire, per me è sempre sabato, sì. O faccio i soldi o muoio, euro sottanatos. Tutti vogliono vedere, Dogo, Dogo, Dogo, Dogo. Tutti